superiamo la prima ora di puntata e di fatto io ho dovuto accendere un altro microfono. Uno in più e infatti non avevo acceso il tuo poi. Ed è per questo che mi sono un attimo sbagliata, perché ci ha raggiunto con noi una super ospite. Esatto, una super ospite speciale. Perché allora, prima di presentarvi l'ospite speciale, vi voglio raccontare di che cosa parleremo, così inquadriamo un attimo il discorso. Domani, cioè martedì 16 novembre, alla Libreria delle Donne ci sarà la presentazione del libro La storia del pesce Angela Davis, e alla presentazione di questo libro ci saranno appunto le scrittrici, che sono, le cito tutte, poi diciamo chi è ospite, così non facciamo, come si dice, torto a nessuno. Il libro è stato scritto da Rachele Borghi, Gaia Ballatori, Camilla Penzo, Carolina Topini, e edito da Edizioni Minoritarie. E qui presente in studio c'è Gaia. Ciao Gaia. Ciao, grazie dell'invito, sono molto emozionata. Anche io, noi. Esatto, anche noi, super emozionata, perché devi sapere che sei la seconda ospite, se non sbaglio. Esatto, la seconda ospite della della storia di ukulele, proprio esatto. La seconda ospite live in studio con noi. Quindi c'è un grande onore. Esatto, grande onore questo. E appunto siamo qui per parlare del pesce Angela Davis, che è stato scritto da te a più mani, come dicevamo prima, e ti volevo chiedere un po' di raccontarci la storia di questo libro, per bambini e per bambine in realtà. Ok. E allora, la storia è la storia di, cioè in realtà è un libro contro le frontiere, è la storia del pesce Angela Davis, che non le piace il posto dove è nata, non riesce a starci perché le prude la pelle, come c'è scritto, e quindi decide di migrare, quindi di migrare in un lago. Lei è nata nell'acqua salata, e però incontra un ostacolo che è la frontiera, quindi diciamo è un libro che anche introduce dei concetti complessi come quello di frontiera e anche di privilegio a dei bambini, bambino, bambine. E dopodiché attraverso l'aiuto che trova durante il percorso delle compagne che si rivelano delle alleate, che trovano delle strategie insieme per superare la frontiera, riesce a superarla. Però la cosa interessante di questo libro, secondo me, è che lei non è contenta di superare la frontiera. Nel momento in cui la supera, capisce che nel percorso che ha fatto ha preso qualcosa di molto importante, che è l'importanza delle alleanze, e di conseguenza decide di tornare indietro per diciamo riportare quello che ha appreso, perché non si accontenta di essere riuscita da sola a superare le frontiere, ma che anche altre persone, altri pesci in questo caso, possano avere, esatto, la possibilità. Esatto, perché diciamo che in realtà i protagonisti di questo libro, o le protagoniste più che altro, sono tutti animali del mondo marino, quindi c'è il pesce, la tartaruga, c'è l'ostrica, insomma ci sono tantissimi, il polpo, esatto, ci sono tantissimi pesciolini che abitano il mondo animale, il mondo acquatico, e tra l'altro hanno tutti dei nomi molto particolari, a partire appunto dalla protagonista Angela Davis. Ci vuoi raccontare perché questi nomi così particolari? Allora, secondo me sono stati scelti insomma questi nomi, come Angela Davis, Franz Fanon, Belux, Gloria Anzaldúa, Grada Quilomba, che è stata inserita nella versione cartacea del libro che prima non c'era. Sono tutti nomi che insomma appartengono al pensiero decoloniale, al femminismo nero intersezionale, e secondo me sono un po' per lanciare degli input alle bambine, bambini e bambino, e diciamo degli input di dei nomi che altrimenti non sarebbe difficile, no, che qualcuno sarebbe difficile venisse a conoscenza di queste storie, le storie di queste persone come Angela Davis, persone comunque rivoluzionarie, e di conseguenza inserirle significa dare un input che poi magari da grandi ritrovarsi inciampando nuovamente nel nome di Angela Davis, magari saranno incuriosite da questi nomi e avranno voglia di approfondire. Poi in più sono personaggi che hanno fatto la storia, ma sono storie che non vengono raccontate, che anche noi stesse facciamo difficoltà a, dobbiamo fare proprio una ricerca per incontrarle, sì, di conseguenza veramente. anche noi a volte facciamo fatica a conoscere questi nomi, e quindi magari se si conoscessero già da piccoline sarebbe, no, anche un aiuto a volte. E poi costituiscono anche dei modelli differenti di vita in generale, che altrimenti non ci verrebbero dati. Poi, anziché dare, diciamo, dei nomi anonimi, come potrebbe essere quello di una cappuccetta verde, non so, si danno carina dei... cappuccetta verde. Lo segniamo per il prossimo libro. Esatto. Nostro, magari. No, facciamo io e te, Adele. Sì, certo. Cappuccetta verde. Un bel libro, già lo vedo. Sì, anch'io. No, comunque è veramente ottima la scelta di nomi. E a questo punto ti chiedo, visto che già un po' lo citavi prima, che c'è una versione non cartacea da cui è partita tutta la storia del libro. Sì, c'è una versione originale, insomma, che è stata scritta, anzi è stata pensata, scritta da Rachele Borghi, che in realtà si trova alla fine del libro cartaceo. C'è un QR code che porta direttamente a un podcast dove dalla viva voce di Rachele Borghi si può sentire la storia originale del pesce Angela Davis. E dopodiché Rachele ha deciso di coinvolgerci nella scrittura, nella pubblicazione, insomma, di questo libro, e in cui, diciamo, ognuna di noi ha dato il suo contributo, inserendo apposta in realtà riferimenti poi al femminismo intersezionale, quello anche un po' modificando, diciamo, più che altro la conclusione, inserendo anche nuovi personaggi come Sherry Moraga oppure Grada Chilomba, che prima non c'erano. Quindi è stato veramente un lavoro di gruppo, poi, tra l'altro, no? Veramente a più mani. E appunto, le collaborazioni le abbiamo già un po' citate, i nomi li abbiamo già detti, e ti volevo invece chiedere una cosa riguardo il finale, perché ne abbiamo parlato anche, insomma, tra di noi. Non so se vogliamo dire questa cosa, che in realtà in tutto ciò io e Gaia siamo anche coinquiline, così, che non c'entra niente ovviamente con la presentazione del libro, però in più c'è anche tutto. Ci sono dietro delle chiacchierate che ci siamo fatte io e te riguardo questo libro, e il finale è molto bello ed è un po' il succo forse del libro, ecco. Sì, è un finale che parla apposta dell'importanza delle alleanze, come ho già detto, e di conseguenza, diciamo, che introduce anche il concetto di cosa significa fare corpo collettivo insieme alle compagne. E è stata introdotta questa metafora, che in realtà è il titolo di un libro di Gloria Anzaldúa, che è il titolo del libro in italiano, che in realtà non è stato tradotto, lo traduco io in questo momento, è quel ponte chiamato La mia schiena, che parla di femminismo intersezionale, femminismo nero, e in cui praticamente c'è il concetto di base, insomma, abbiamo deciso di mettere questa metafora per far capire che la frontiera può essere superata attraverso l'alleanza, appunto, e facendo corpo collettivo. C'è una metafora che rimanda al corpo, al fatto che tutte noi possiamo costituire un appoggio per qualcun altro, possiamo mettere a frutto il nostro privilegio per insomma superare e lottare insieme, insieme, certo. E a proposito di sostenere diciamo anche altre persone, in questo caso un collettivo, no, non ce la posso fare a dire questa parola, eh. Vai. Volevo dire royalties, invece ho invertito delle lettere. Comunque, le royalties del libro andranno a un collettivo che si chiama Canapè. Ci puoi raccontare anche questa cosa? Sì, è un canapè che è nato, sì, un canapè, è una collettiva. Vedi, fai come me, è colpa mia. È colpa mia. Sì, no, devo dire che comunque le ospiti di Ukulele sono travolte dall'energia nostra, che è tipo noi che ce la viaggiamo in continuazione. Esatto. E alla fine anche le persone che poi vengono qua vengono travolte da per questa forza. Cosa e non riescono più a... Così, a scandire le parole. Sì, colpa nostra. Esatto. Lo ammettiamo. Sì. Il canapè è una collettiva di automutuo aiuto che è nata alla Sorbona, quindi a Parigi, all'interno dell'università, è composta da persone bianche, non bianche, da persone lesbiche, queer, e sono persone che si sono ritrovate soprattutto nel periodo di emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, in una forte situazione di precarietà da tutti i punti di vista, a partire da quella economica, e la collettiva è nata perché diciamo, beh, Rachele intanto è stata il centro un po' di questa collettiva, perché esplicitando anche un po' il suo posizionamento si è resa disponibile a queste persone che poi si sono fatte avanti nel momento anche del bisogno, in una situazione particolare, e diciamo hanno ricevuto apposta appoggio, alleanza, e dopodiché l'hanno restituito alle persone che mano a mano sono venute fuori, che comunque sono aumentate sempre anche a causa della pandemia, e che quindi sono aumentate e hanno trovato appoggio nella collettiva che si era già formata, che poi è diventata autonoma, è stata in grado di rispondere anche a queste esigenze in maniera repentina, immediata. Certo, e quindi insomma, sostenendo il vostro libro, di conseguenza diciamo si sostiene anche questo collettivo. E appunto, come dicevo inizio intervista, domani sarete qui a Bologna alla Libreria delle Donne per presentarlo. Con non sarai da sola, perché ci saranno anche altre persone, ci sarà Slavina, ci sarà Rael Sarek, ci sarà anche Antonia Caruso di Edizioni Minoritarie, che citavamo anche prima che qua sembra fatto tutto in casa, ma giuriamo che è una casualità. È una casualità trovare così tante belle persone tutte insieme, esatto, dentro a Radio Città Fucico. Esatto. Va così. Non ci sono solo i matti a Radio Città Fucico, ma anche delle belle persone. Che fanno belle cose, esatto, tra l'altro. Che fanno bellissime cose. E tra l'altro ci sarà anche un dress code richiesto per la presentazione. Lo vuoi dire tu, Gaia, qual è il dress code? Bisogna vestirsi da pesce. Esatto. Oddio, che bello. Io però devo essere in difficoltà di fronte a questo. Come ci si veste da pesce? Non so, io farei la stella marina, ad esempio. Già, questa è un'ottima. Ti piace l'idea? Soluzione. Sì, io già marina. Pensavo, tipo, chissà se ho delle magliette di Nemo a casa. Ah, oddio, non lo so. Le magliette di Nemo mi mancano, mi sa. Comunque, tra l'altro, in realtà mi sa che sono quasi finiti i posti, se non finiti, probabilmente per la presentazione. Credo. Però non si sa mai, magari siete lì in zona Libreria delle Donne, insomma fate un salto che magari c'è qualche posto per intrufolarsi, anche se non si è vestiti da pesce, dai, ci si può andare, ci si potrà andare anche senza. Io non so se trovo per domani un costume da stella marina. Da pesce palla. Ah, bello. Tu fai la stella marina, io faccio il pesce palla. Posso, saremo una bella coppia, veramente una bella coppia. Faccio questa domanda a Gaia perché cioè, mi incuriosiva rispetto un po' al progetto o all'obiettivo di questo libro, che comunque è indirizzato a bambine e bambini e vuole cercare di sensibilizzarli o cercare di anticipare magari tutta una serie di tematiche che da grandi cercheranno di, si spera, di affrontare in maniera molto più esaustiva e molto più anche complessa, perché sono tematiche chiaramente molto complesse. E ti chiedo, sulla base di questa complessità, qual è stata poi la sfida di cioè, quali sono state le difficoltà poi nella scrittura del libro per cercare di semplificare tutta una serie di concetti che sono molto molto complessi, ma anche molto molto importanti, e come tali magari ogni tanto la semplificazione può far perdere diciamo anche un po' la totalità del concetto. Non so se hai capito qualcosa. No, però. Certo, sì, grazie mille. No, la domanda è molto difficile, nel senso che ci devo pensare, perché effettivamente c'erano dei concetti come quello di frontiera, che insomma su cui magari Rachele aveva già scritto, quindi, però nella riscrittura apposta del finale, cioè il concetto di fare corpo è stato tradotto con apposta con la metafora dell'unione dei corpi, che non è una cosa semplicissima. Effettivamente di questo libro si possono dare tante letture, man mano che si cresce, man mano che si apprende, cioè, diciamo, anche un certo linguaggio, si possono comprendere anche diciamo i riferimenti, però credo che tanti libri siano un po' così, che si possono leggere a strati, prima si comprende una parte un po' più superficiale e piano piano si approfondisce, quindi ci sono tantissimi riferimenti, anche solo il fatto di aver messo per esempio l'MLP, il Movimento Libero dei Pesci, in realtà che fa un sacco ridere e ci siamo fatti un sacco di risate effettivamente quando l'abbiamo deciso, fa eco in realtà un po', fa il verso a tutti i movimenti di liberazione che ci sono veramente stati e che portavano queste sigle, dai movimenti di liberazione insomma anticoloniali, quindi per la decolonizzazione, ai movimenti di liberazione della donna, per esempio. Quindi per esempio questi sono riferimenti che è chiaro che non si possono, certo, capire, però uno da grande magari studia scienze politiche, si ritrova in PL e magari ci pensa e magari dice: da piccola facevo parte del movimento di liberazione dei pesci, sarà così, e mi chiamavo Angela Davis. Esatto. Beh, sarebbe una bella scena, no? E, beh, invece tu, Caio, volevi anche ritornare un attimo sulla presentazione di domani, perché sì, ci saranno appunto anche presenti Slavina e Rael, volevi parlare anche un po' della loro, sì, presenza, no? Sì, perché è vero che abbiamo scelto dei nomi come Angela Davis e Frantz Fanon, che sono nomi comunque relativamente conosciuti, però ci sono anche nomi, per esempio, di Slavina e Rael, che sono lì a segnalare il fatto che, come dice sempre Rachele Borghi, guerrigliera non si nasce, ma ci si può sempre diventare. Di conseguenza, cioè, sono nomi di persone che sono presenti adesso, che sono vive e fanno attivismo, insomma, si spendono il loro tempo in questo modo e che lottano, e quindi è anche per dare l'idea del fatto che ognuna di noi in realtà può fare qualcosa, non bisogna per forza essere un'Angela Davis. E questo secondo me è anche un messaggio molto importante per le persone, le piccole persone che devono crescere. Eh sì, veramente, per le piccole persone, per il nostro futuro, come si dice, no? È così. E niente, Gaia, io ti ringrazio tantissimo. Grazie veramente a voi per essere davvero stata qua. Grazie. E appunto domani ci sarà la presentazione, presentatevi anche voi vestiti da pesce da casa. Mi raccomando. Mi raccomando, vogliamo tante stelle marine e pesci palla alla presentazione. E niente, grazie ancora Gaia, complimenti, grazie, per il vostro lavoro. Grazie a voi.